Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, quando sono le 14:01. Dunque, l'ultima notizia sul fronte europeo arriva da una dichiarazione del Presidente della Commissione europea Juncker, che oggi è in visita a Bolzano, incontri con Compacer, con le autorità locali. Poco fa Juncker dice: è giusto che la Commissione UE si faccia carico della ricostruzione della bellissima cattedrale di Norcia. Questa dichiarazione, naturalmente, più che condivisibile, è in qualche modo anche un ulteriore segnale nei confronti di un braccio di ferro, polemica circa il ruolo appunto della Commissione dell'Unione Europea di fronte a quella che è la recente crisi dei terremoti, delle sequenze di terremoti che colpiscono l'Italia dal mese di agosto. Occasione quella di Bolzano per Juncker per parlare di confini, per parlare del tentativo di trovare appunto una posizione comune e soprattutto regole condivise nella gestione dei flussi migratori, che poi sono la ragione che hanno spinto il governo italiano per la prima volta nella sua storia a non votare positivamente, a congelare di fatto il suo voto in materia di bilancio dell'Unione. Chi chiede controlli permanenti dei confini in Europa mette in discussione il benessere in Europa, ma anche la libertà dei cittadini. Così ancora questa mattina Jean-Claude Juncker. E ora invece andiamo in Turchia, un altro grande dossier di fatto dei rapporti, dei temi della migrazione, dei rapporti tra l'Unione Europea e il mondo, e naturalmente in materia di diritti civili. Alessandra Tedesco ha infatti intervistato Elif Shafak, nota scrittrice turca che da anni vive a Londra. Nel suo ultimo romanzo Tre figlie di Eve fa una panoramica della situazione della Turchia dagli anni 80 ad oggi, soffermandosi sulle donne. In Turchia, dice, alcuni pensano che la democrazia sia solo roba da occidentali. About 10 years ago, there was a golden moment when it seemed almost possible that Turkey was going to join the EU. Una decina d'anni fa c'è stato un momento aureo nelle relazioni fra l'Unione Europea e la Turchia. Sembrava quasi possibile che le porte si sarebbero aperte per la Turchia. E nella società turca il consenso nei confronti dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea era altissimo. Io direi al di sopra dell'80%. Respirava un clima euforico tra la gente, e mi rattrista molto il fatto che questa possibilità, questa finestra di opportunità non sia stata più utilizzata. Adesso è persa. La colpa la do in parte al governo turco, perché ha mancato di ottemperare i criteri posti dall'Unione Europea per il suo ingresso. Avrebbe dovuto fare le riforme che l'Europa chiedeva e non le ha fatte. Però la colpa la do in parte anche a quei politici populisti europei, in particolare francesi, che hanno utilizzato la Turchia come una sorta di spauracchio nelle loro campagne elettorali. È stata una politica molto miope questa qui, perché adesso che le relazioni tra l'Unione Europea e la Turchia in qualche maniera si sono messe in stallo, diciamo, a chi viene utile questo? A chi fa comodo questo? Quelli che festeggiano sono gli isolazionisti. Chi sono gli isolazionisti? In Turchia sono, diciamo, le componenti ultranazionalistiche della società e dell'ambiente politico e gli islamisti. E da allora si sono visti i risultati. La Turchia è sempre più chiusa, è un regime sempre più autoritario, prendono sempre più piede gli ultranazionalisti e gli islamisti radicali. Non fa bene a nessuno. Detto questo, si può benissimo criticare il governo, ma questo non equivale a criticare il popolo, perché ognuno sa che governo e popolo non sono la stessa cosa. At the same time, we can be critical of the government. The government and the people are not the same thing. Infine una notizia sull'industria aerospaziale, il successo del lancio di Galileo. Ieri infatti 4 satelliti nello stesso razzo della costellazione Galileo sono stati messi in orbita. La costellazione Galileo ora si compone di 18 satelliti in orbita. Per avere una copertura globale ne servono almeno 24. Sapete, Galileo, ne abbiamo parlato tante volte, il GPS europeo, il GLONASS europeo, per riferirsi a quello degli Stati Uniti e della Russia. Per la prima volta, tra l'altro, si è utilizzato per Galileo un veicolo di lancio europeo, Ariane 5. I nuovi satelliti naturalmente velocizzeranno il dispiegamento del sistema di navigazione satellitare globale europeo. E con questo è tutto per il nostro appuntamento sulle notizie europee. Adesso, come sempre, tutti convocati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.